Il gastronauta di Davide Paolini. Cin cin, cari gastronauti, ebbene oggi parliamo di vino e quindi brindiamo e parleremo di un vino molto controverso che è il vino novello. C'è chi lo ama e c'è anche il partito di chi non lo beve, quindi andremo così a fare un giro di largo orizzonte per capire un po' questo fenomeno che è veramente molto importante, perché stanno per arrivare sul mercato qualcosa come 11 milioni e mezzo di bottiglie, ci sono 250 produttori con un fatturato che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, quindi insomma un fenomeno molto importante, però da sempre discusso, e quindi io vi do il numero verde perché chi vuole intervenire può farlo benissimo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ma per cominciare io voglio così fermare questo fenomeno facendoci spiegare da un bravissimo enologo nonché professore universitario come Leonardo Valenti. Buongiorno Leonardo. Ciao Paolo, scusa Davide, e saluti anche a tutti i tuoi radioascoltatori. Ecco, vogliamo spiegare, diciamo in maniera molto semplice, cos'è il vino novello? Ma il vino novello, per quello che è tradizione, ovvero sia che abbiamo recuperato dal modello francese, che è il Beaujolais Nouveau, che viene fatto con una tecnica chiamata macerazione carbonica, ovvero sia viene presa dell'uva intera, messa in una vasca, arricchita con del gas, della CO2 oppure con un piede di fermentazione che svolge anidride carbonica, lasciato in un certo periodo di tempo, alcuni giorni, 7, 8, 10 giorni a macerare. All'interno della bacca praticamente avviene una fermentazione che viene fermentato l'acido malico, che viene trasformato in acido lattico, e avviene anche una parziale fermentazione dello zucchero, e questo tipo di situazione porta a rompere le cellule della buccia e a diffondere nel vino, quando verrà tolto dalla vasca e rimesso a finire di fermentare in un'altra vasca, dei profumi che sono molto legati a prodotti da fruttato, da frutta, la banana, la mela, tutti questi frutti molto dolci, e poi naturalmente perdendo subito l'acido malico c'è una diminuzione forte dell'acidità, e per cui c'è una dolcezza naturale di questo vino. Ecco, rimani con noi, abbiamo anche Carlo Cambi, che è direttore di Wine and Passion, questo mensile che mi sembra sia al quarto numero. Buongiorno Carlo. Ciao Davide, buongiorno a chi ci ascolta, e saluto anche Leo, che è una vita che non ci sentiamo. Bene, Carlo, vuoi dare anche tu un tuo giudizio su questo fenomeno del... abbiamo sentito come si produce tecnicamente, ma dal punto di vista, se vogliamo, del mercato, tu cosa ne pensi di questo fenomeno del novello? Ma sai, il novello secondo me in questo momento, a parte che serve fare un ragionamento sul prezzo, una volta era, quando ha debuttato il novello veniva offerto veramente a due soldi, oggi ha delle quotazioni molto vicine ai vini, come dire, di gannata, insomma. Se tu permetti, già... guarda, ti do, c'è una ricerca già che il prezzo più alto è 8,50 in Trentino e in Veneto, e il prezzo più basso è 2,10 sempre in Veneto, quindi una media nazionale di 4,71. Voglio dire, intorno a quei soldi lì tu oggi puoi bere anche delle cose decenti di annata, quindi già questo fatto che sia il vino sbarazzino eccetera eccetera è un po' meno vero. È molto legato, nell'immaginario collettivo è legato all'idea del vino nuovo e castagne, no? Cioè questa ritualità autunnale. A me personalmente non ha mai entusiasmato il novello, perché questi residui delle macerazioni carboniche mi sembra che insomma sia più una roba che assomiglia ai pop drink che non al vino vero e proprio. E tuttavia mi rendo conto che è necessarissimo per le cantine, perché gli consente di fare cassa in un periodo in cui hanno un sacco di spese, pensa che devono spesarsi tutta la raccolta dell'uva, la vendemmia, eccetera, eccetera, e nell'arco di un paio di mesi incassano dei soldi che gli servono a fare cassa e magari gli permettono di fare gli affinamenti, di migliorare i vini. Insomma, diciamo delle rendite per migliorare il resto della cantina. Migliorare il resto della cantina, insomma. Sì, ecco, però dal punto di vista del piacere del consumo... Cioè, può veramente essere lo scherzo di una sera, ma non lo vedo e non lo trovo il vino da abbinare a un pasto degno di questo nome, insomma. Bene, sentiamo Augusto dalla provincia di Viterbo, un radioascoltatore. Buongiorno Augusto. Buongiorno Paolini, sempre in gamba lei. Allora, io sono un ex vignaiolo e oggi c'è a Vignanello la festa del Novello. Comincia oggi pomeriggio fino a domani e poi l'altra domenica. Tutto qua. Ah beh, voleva annunciare che c'è questa festa, benissimo. Grazie Augusto dalla provincia di Viterbo. Una domanda per Valenti, di un radioascoltatore. Vorrei sapere se ha senso parlare di novello per vini da bere giovani tipo Bonarda, Gutturnio e Grignolino. Sì, sono cose diverse, perché questi vini sono normalmente rifermentati, per cui subiscono una prima fermentazione come tutti i vini e poi vengono messi in autoclavi oppure in bottiglie, vengono rifermentati, per cui la CO2 e i profumi che sono da rifermentazione. Il novello ha un proprio target, è legato a questi profumi che possono piacere o meno. Io non sono un grande amante del novello, nemmeno io come Carlo che saluto, ma secondo me però la gente nell'immaginario è il vino nuovo, la cosa nuova, la nuova annata che si apre, la curiosità di vedere qualcosa che va sul mercato, per cui iniziare a dire c'è la nuova annata, c'è sempre la curiosità da parte del consumatore. Bene, grazie, ti ringrazio Leonardo e a presto. Sentiamo Margherita dalla provincia di Milano. Buongiorno Margherita. Buona giornata a voi e buona giornata a tutti i presenti. Io volevo riferire un episodio accaduto a noi nel 1969, quando con la mia famiglia, con due bambini piccolini sotto le braccia, ci siamo trasferiti per 20 anni, poi fra l'altro in Francia. Mi aveva colpito molto il titolo del Figaro, che riportava in prima pagina, con titoli e caratteri cubitali, l'annuncio, il Beaujolais Nouveau est arrivé. Mi era sembrata, avevamo mandato addirittura le fotocopie ai nostri amici in Italia, dicendo che era di buon augurio questa cosa, e oggi mi trovo a rimpiangere i tempi in cui l'arrivo del vino nuovo può costituire addirittura un fatto da mettere in prima pagina, contro quelli che invece sono i titoli dei nostri giorni. Mi dispiace che non sia più così, perché in fondo era carina questa cosa, a me era sembrata molto carina, insomma, indipendentemente dalla qualità del vino, poi tra l'altro. Guardi che il Beaujolais Nouveau in Francia è sempre stato così, diciamo, proclamato con grandissime iniziative, elicotteri, aerei, cose molto, diciamo, mirabolanti, e quindi credo che, cioè, i francesi per anni abbiano puntato molto su questo vino. Poi vedremo anche qualcosa in particolare sul Beaujolais Nouveau. Grazie a Margherita, ricordo il numero verde 800 24 0024. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino novello. Già tanti sono gli sms arrivati. C'è chi mi dice, come Francesco, a me piacciono i vini novelli, quello di mio papà e il Beaujolais Nouveau. Beh, quelli del padre sicuramente piacciono sempre di più. Altri invece che hanno festeggiato l'annuncio del secondo nipotino, altri ancora invece che vogliono sapere degli accostamenti del vino novello. Bene, vedremo tutto nel corso della trasmissione. Buongiorno a Andrea Sartori, della Casa Vinicola Sartori. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sartori, volevo chiedere, diciamo, in Veneto mi sembra che il vino novello rappresenti per molte aziende un fatto molto molto importante. Volevo chiederle se il mercato anche quest'anno secondo lei è pronto e quindi ad assorbire questa grande massa di prodotti che stanno arrivando sul mercato. Ma il mercato in effetti è un po' più difficile, ma direi che non è difficile, più difficile solo per il novello, perché comunque un po' di calo di consumi è stato rilevato un po' in tutti i settori dell'enologia. E il novello, ovviamente Veneto è una regione molto importante, perché ritengo che ci siano due tra i vitigni forse più vocati, che sono i vitigni della zona del Lago di Garda, diciamo del Bardolino, e il Merlot, che è sempre un vitigno che si presta molto a questo tipo di lavorazione. Ecco, Carlo Cambi prima faceva questa considerazione, ancora in linea con noi, casomai lo facciamo rintervenire. Diceva, beh, insomma, ci sono dei vini novelli che hanno raggiunto un costo che sicuramente diciamo si posiziona sul mercato su una fascia che non è più una fascia bassa. Sì, sicuramente c'è sul mercato oggi vediamo un po' di tutto. Ho visto anche purtroppo i novelli collocati nella fascia ultra bassa e io questo insomma mi fa sempre un po' specie e sono sempre un po' sospettoso francamente quando vedo questi prezzi un po' troppo bassi. Sì, novello purtroppo è anche una lavorazione abbastanza costosa, anche se è vero, adesso parlo dal punto di vista aziendale, che invece il cash flow cosiddetto è immediato, perché ci sono vantaggi e svantaggi, però sicuramente insomma il novello si colloca in una fascia media, oggi in una fascia media più che in una fascia bassa. Senta, lei ha parlato di costi di produzione, e secondo lei c'è un limite inferiore sotto il quale insomma si possono avere dei dubbi? Ma io, come dicevo prima, insomma, direi che forse un prezzo limite è attorno ai 3 euro. Ecco, sotto i 3 euro, insomma, stiamo un po' attenti magari. Bene, grazie ad Andrea Sartori dell'azienda Sartori e a presto. Sentiamo Paolo dalla provincia di Udine. Buongiorno Paolo. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Udine e volevo solamente dirle che per quanto riguardano i novelli, io amo un novello solo che è la ribolla gialla, che viene prodotto qua nella zona del Colli orientale e che i miei amici vignaioli di Cormons chiamano pagadebiti. Quindi è il primo vino che veniva venduto e serviva per pagare i debiti e portava avanti l'azienda. Gli altri non li amo perché, dico la verità, li sento troppo falsi. Caro Paolo, le posso dire da buon romagnolo che nella zona di Bertinoro da una vita si produce un vino bianco fermo che si chiama Pagadebit, che non è un vino novello ma è un vino bianco fermo, non ha macerazione ma un vino prodotto normalmente, quindi questa è da andare ad appurare quali sono le storie di questi due vini, perché Pagadebit è veramente anche una parola dialettale romagnola. Grazie a Paolo. Sentiamo Eliseo dalla provincia di Milano. Buongiorno Eliseo. Senta, mi sono collegato da poco alla vostra radio, ma l'argomento è interessante. Io soffro di emicrania e so che il vino contiene i solfiti che fanno venire l'emicrania a chi è predisposto. Volevo sapere se anche il novello li contiene. Beh, io credo proprio di sì, ma ora lo chiederemo sicuramente a un produttore che ci dirà anche il livello dei solfiti. Sentiamo intanto un enotecario di Genova che ha una posizione molto particolare sul novello, Fiorenzo Sartore della Botte Piena. Buongiorno Sartore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Lei cosa ne pensa del vino novello? Ma allora, io sul novello ho una posizione da commerciante, lo vendo, però devo dire che rispetto a molti enofili che mi capita di incontrare, lo bevo e mi piace abbastanza, mi piace il novello in quanto vino spensierato, rilassato, una cosa estremamente piacevole, piaciona e poco, come dire, problematica. Poi sul novello io personalissimamente devo dire che funziona molto negli ultimi tempi, l'opinione che ho sentito anche in trasmissione oggi di Carlo Cambi, se mi sì. Questa specie di opinione da analista finanziario più che da enofilo. Cioè, non c'è più nessuno che parli male del novello, perché in un periodo come questo, un periodo di problemi finanziari non piccoli, adesso il novello scassa. E quindi il novello è buono per motivi che non attengono nemmeno più l'enologia, ma insomma l'analisi finanziaria. Ciò detto, il novello sì, mi piace, anche se, ripeto, la mia esperienza è che non conosco enofilo avanzato che non sia ferocemente critico nei confronti del novello. Beh, rimanga con noi, guardi, abbiamo Carlo Cambi ancora. Okay. Carlo, dimmi. Hai sentito la... Sì, no, io sono d'accordo con il nostro amico enotecaro, cioè non si può parlare mai del novello. Il novello è un po' come Garibaldi, per no? Cioè, per definizione è buono. A me non ho detto che non mi piace, ho detto che non mi entusiasma, cioè è il seme l'inanno licet insanire, però tutta la prosopopea che c'è intorno al novello non è giustificata dalla qualità del novello, come lo stesso vale per il Beaujolais Nouveau. Sappiamo tutti che loro avevano enormi distese di vitigni Gamay che non sapevano come utilizzare e hanno inventato il Beaujolais Nouveau per fare cassa, per smarcarsi dai negoziant che comunque tengono i vigneron per il collo dei contratti di fornitura, e quindi è chiaramente un meccanismo dell'annata agraria che serve alla cantina, che serve al produttore. Detto questo, può incontrare i gusti del pubblico, anzi dirò che oggi con con questa disaffezione di consumo che c'è verso il vino per ragioni di soldi, ma anche per ragioni di cambiamento di gusto, forse il novello può essere quello che è stato il brachetto tanti anni fa, cioè il vino di introduzione, il vino di iniziazione, perché è meno impegnativo, perché è un po' dolciotto, perché ha questi sentori espliciti, e però dà anche un po' alla testa qualche volta. E la domanda del nostro ascoltatore, se chi ha le emicranie al novello gli faccia bene, secondo me no, perché le macerazioni carboniche sviluppano sicuramente degli elementi che disturbano un po'. Ecco, è un vino contraddittorio. Detto tutto questo, la cosa per cui secondo me varrebbe davvero la pena di difendere il novello è che buona parte dei novelli sono fatti da vitigni autoctoni, cioè è il momento in cui le povere uve bistrattate di zona riacquistano notorietà. Se fai caso, Davide, fanno caso i nostri ascoltatori, certo, alla lista dei novelli, ti accorgerai che buona parte dei novelli sono fatte da Teroldego, da Sangiovese, da Bombino Nero, da Malvasia Nera, cioè da tutti quei vitigni che evidentemente non servono o non vengono utilizzati per fare i vini blasonati e o taroccati, come è il caso di alcune zone vinicole importanti d'Italia, e che finiscono giustamente nel novello e lì hanno protagonismo. Ecco, questo mi sembra un aspetto positivo del novello. Grazie a Carlo Cambi, grazie, a presto. Sentiamo Aurelio da Bari. Buongiorno Aurelio. Buongiorno Alessio Paolini. Senta, a parte il fatto del mio percorso di studi in agraria, l'ascoltatore che ha conferito con lei indicando particolari così non dissentendo dalla comune valutazione abbastanza positiva del vino novello, ha espresso delle valutazioni poco piacevoli. Allora, il vino novello per me, a parte il fatto, ecco, di aver visto e praticato la vinificazione, e come si fa a non decantare il vino novello, che per me è da esaltazione, nel senso che è come se lei prendesse un grappolo. Quando ero piccolino mi portavano in campagna a vendemmiare, a raccogliere l'uva, e quei profumi sono rimasti immutati da allora, per cui il vino novello è come se lei prendesse un grappolo e lo alzasse con la bocca aperta e lo premesse. Bene, Aurelio, posso essere in parte d'accordo con lei, però dobbiamo anche ammettere che ci sono anche altri modi di pensare, quindi benvenga benvenga la sua valutazione, che c'è anche un qualcosa di romantico, di molto bello in quello che sta dicendo di questo ricordo, quindi sicuramente, diciamo, accettiamo molto volentieri anche così la sua interpretazione. Bene, volevo sentire anche da un altro, diciamo, da un sommelier importante come Luca Gardini, sommelier del ristorante Cracco, cosa ne pensa del novello, senza fronzoli. Luca, cosa ne pensi? Buongiorno a tutti. Cosa ne penso? Secondo me è un vino, se vogliamo chiamarlo vino novello, quindi vino nuovo, che non ha personalità, nel senso che secondo me non ha una collocazione, soprattutto nell'altra ristorazione è un vino che non può avere collocazione, perché è un vino immediato, non ha longevità, è un vino che va preso nel questo breve lasso di tempo in cui viene prodotto e viene consumato, un vino senza personalità, non ha personalità secondo me. Quindi tu dici che sono difficili gli accostamenti? Non è che sono difficili, è difficile proporlo, l'accostamento si può anche trovare, è difficile proporlo in un certo contesto di alta ristorazione, e soprattutto qualitativamente oggigiorno anche trovare un novello di alta qualità è difficile. Bene, grazie Luca Gardini, sempre chiaro e sempre così ben personale nelle sue interpretazioni. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Un'ultima domanda a Sartore. Sartore, lei prima ha parlato del suo, diciamo, del suo acquirente. C'è anche qualche appassionato, diciamo, che si intende di vini e di solito sceglie dei vini importanti che magari le chiede il novello? Sono molto rari. Chi beve vino importante normalmente ha nei confronti del novello un atteggiamento di, non direi di repulsione, ma certamente, insomma, no, non beve novello. Chi beve vini importanti soffre della sindrome della lingua asfaltata, cioè beve solo cose importanti e non torna indietro, e secondo me si perde anche un po' qualcosa, personalissima opinione, cioè si perde la piacevolezza, si perde la leggiadria, eccetera, eccetera, eccetera, però come sempre io trovo che le opinioni in questo ambito siano totalmente legittime, anzi le opinioni quando sono accese sono parte del divertimento nel nostro e nel mondo. Certo, parte è verissimo. Il novello divide come pochi. Bene! Che non è un argomento di dibattito spettacolare. Beh, infatti, guardi, io ho fatto questa trasmissione ben sapendo questo, quindi l'ho fatta apposta perché so che ci sono due partiti ben precisi, che divide come. Grazie a Fiorenzo Sartore, grazie a Carlo Cambi. Il gastronauta. Oggi è di scena il novello, cari gastronauti, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, due partiti quindi, il pro e il contro al novello. Beh, ho un radioascoltatore De Rosa che mi dice che ha una bottiglia di novello del 62-63, se è ancora buona. Beh, caro De Rosa, credo veramente che la regali magari a qualche museo, ma non la beva, mi raccomando. Sentiamo Orlando da Reggio Emilia, buongiorno Orlando. Buona giornata Paolini, complimenti per la trasmissione, senza fronzoli. Io sono di Reggio Emilia e ho una grande stima per il nostro Lambrusco. E il nostro Lambrusco da novello è ancora più buono, è più leggero, è frizzante, e direi quasi che è uno champagne leggero. Non apprezzo molto il Beaujolais Nouveau, i vini francesi che hanno lanciato questa moda non hanno nulla da invidiare i nostri vini italiani, credo, parlando di novelli. E noi abbiamo un buon novello tra Modena e Reggio Emilia, che sono i Lambruschi. Questa la penso così. Bene, grazie Orlando. Beh, credo che ci siano molti regionalismi anche sul novello. Bene che ci siano, diciamo, questi partiti. Sentiamo Maurizio da Verona. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, lei è bravissimo e conduce benissimo e ci fa venire anche un grande appetito. Comunque, mi ricollego al novello. Grandi catene vendono il novello ad un euro. L'esperto prima, il signor Sartori, diceva 3 euro. Ma questi vendono vino taroccato o ci rimettono? Ecco, una rispostina breve che così ne vado a comprare qualche bottiglia dopo. Grazie Maurizio, guardi, complimenti. Grazie, abbiamo con noi Francesco Zonin, vicepresidente dell'azienda Zonin. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ha sentito questo radioascoltatore che dice novelli da un euro. È possibile, Francesco, che si possa produrre a questo prezzo il novello? Guardi, io non faccio i conti in tasca a nessuno, faccio i conti in tasca alla nostra azienda. Per noi sarebbe molto, molto, molto difficile, anzi tecnicamente impossibile. Potrei dire che sia possibile se il produttore avesse voglia di vendere senza marginare alcunché e se il distributore avesse voglia di perdere soldi su ogni bottiglia venduta. Bene, sì, mi sembra che appunto, visto la macerazione, il processo di macerazione che è abbastanza complesso, insomma, credo che un euro, torniamo ai vecchi discorsi che abbiamo sempre fatto su certi vini che si trovano sugli scaffali con dei prezzi veramente che sono, io dico, impossibili. Poi cosa ci sia dietro è molto difficile. Io spero che i NAS siano sempre pronti a controllare e intervenire. Ma a questo proposito sentiamo Terenzio Medri, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier. Buongiorno Terenzio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i gastronauti. Bene, io non ti chiedo il prezzo perché tu non sei un produttore, quindi non ci puoi rispondere. Sono un produttore. Però tu pensi che si possa produrre un euro? Ma penso che sarà difficile. Ecco, lavorare onestamente per la qualità, ovviamente non si può lavorare ad un euro. Ci saranno altri metodi, tutto quanto. Comunque, tornando al discorso del vino novello, non è che io sono la persona più indicata, perché noi come Associazione Italiana Sommelier ci occupiamo più dei vini strutturati, ma volevo precisare una cosa: il vino, tutti quanti dobbiamo sapere che diventa vino dopo un anno praticamente dalla vendemmia. Per quanto riguarda il vino novello, però, vorrei lanciare anche una lancia a favore. Deve essere visto come un bere alternativo In questo momento c'è questa esigenza perché c'è un profumo di mosto, non è proprio vino, ma è un profumo di mosto, va abbinato con la pizza, con le calde arroste, è una voglia d'autunno in sostanza. E il vino novello serve in modo particolare ai giovani che iniziano dalla pizza, fanno il primo passaggio al novello per poi passare i vini più strutturati. Serve alla ristorazione perché in questo momento, un momento anche di difficoltà, tutto quanto, i ristoratori hanno bisogno di avere questi profumi autunnali che sono un po' richiesti, mentre invece i produttori hanno moneta fresca, perché vino novello, cioè in 2 o 3 mesi, non è come un vino strutturato, invecchiato, che deve tenere in botti alcuni anni, mentre invece qui è subito moneta fresca, perciò è un vino che dà una mano all'economia, e viviamo in un momento che l'economia vediamo che è un grande problema, perciò può essere un motivo favorevole anche per i vini novelli. Bene, prego. Ovviamente il consiglio va per questi 2 o 3 mesi. Poi prima sentivo parlare dei Beaujolais che hanno lanciato la moda. Io ritengo che questo lo dico anche un po' perché sono anche romagnolo, no? Il primo vino novello della storia penso che l'abbia fatto in Romagna, che sia la Canina, certo, che la usavano da bere, la abbinavano alle caldaroste o ballotte o ciambella. Erano un po' questi primi, il primo mosto in sostanza, il primo profumo d'autunno, e perciò gli antichi, praticamente i nostri nonni, bisnonni, tutto quanto, ricordano questa Canina come un vino particolare che poi andava bevuto in questi 2 mesi, cioè nel periodo di San Martino. Questo è un po', prego. No, dico grazie, perché viva la Canina, viva la Romagna, viva Casadei, insomma, a questo punto manca di sottofondo, perché anch'io prima ho parlato di paga debite della mia Romagna, ma manca il sottofondo di Romagna mia, poi siamo a posto. Grazie Terenzio, grazie, ti ringrazio. Sentiamo Paolo dalla provincia di Pesaro, buongiorno Paolo. Ciao Davide, come stai? Sono Paolo, ci siamo conosciuti anche qualche anno fa. Bene. Non ti ricordi? Allora, niente, io quello che sto per dire può suonare una bestemmia per i puristi, però la dico lo stesso perché è un ricordo d'infanzia, mi piace riproporterlo. E negli anni 60, quando ero un ragazzino, qui a Fano, dove c'era l'abitudine di bere prevalentemente vino bianco, in particolare Bianchetto del Metauro, c'era l'usanza durante il periodo dei Santi di andare nell'osteria a comprare il vino nuovo con il bottiglione da 2 litri. Mio zio mi mandava in giro per tutte le osterie di Fano per vedere qual era più buono, e questo vino bianco, e questa è la bestemmia, era un vino ovviamente torbido, ancora torbido, frizzante, ma io ho un ricordo simpaticissimo perché era un po' come un piccolo, così, uno champagne fatto in casa, ed era un vino che si beveva addirittura a tutto pasto, lo potevi bere con le castagne, con il pesce o con qualsiasi altra cosa. È un profumo e un sapore che non ho più potuto rigustare. Tutto qua, Davide. Bene, grazie. Sentiamo Clara da Roma. Grazie Paolo e a presto. Clara? Clara da Roma se n'è andata. Tanti complimenti. Concordo perfettamente con quello che ha detto il presidente dell'Associazione Sommelier. E non dimentichiamo che il vino deve sempre dare un'emozione. E il novello richiama appunto a queste emozioni autunnali. Volevo inoltre ricordare che a una degustazione ho avuto modo di assaggiare un novello vinificato in bianco. Ti chiederei di segnalarmi la zona di produzione, possibilmente l'azienda, perché mi è sembrato una novità interessante. Beh, Clara, è molto difficile, perché cioè, sapere, io lancerò un appello, perché non ci dai regione, non ci dai posto, non ci dai niente, quindi è un po' difficile. Se c'è qualche radioascoltatore, qualche produttore che ha prodotto un novello vinificato in bianco, per cortesia intervenga, perché qui, come si dice, trovare un ago in un pagliaio. Comunque lanciamo questo appello, speriamo che qualcuno risponda. Grazie Clara. Torniamo a Francesco Zonin. Volevo chiederle, un'azienda così importante come la sua, che ha varie tenute in varie parti d'Italia, come riesce a costare, diciamo, vini di grandissima struttura, di grandissima qualità con il novello dal punto di vista commerciale? Ma guardi, io credo che ogni vino abbia un proprio ruolo sul mercato. Ce lo insegnano i francesi, la Francia è terra dei grandi dei grandi cru e della terra dei Beaujolais. Io credo che il segreto stia nella una corretta segmentazione del mercato, perché poi credo che ad ogni consumatore o ad ogni cliente, quindi ad ogni tipo di ristoratore, possa essere fatta una proposta diversa. Possono coesistere ottimi spumanti e grandissimi champenois, possono coesistere degli ottimi novelli e degli ottimi vini più strutturati o più invecchiati. Credo che si debba fare anche per noi produttori molta attenzione al posizionamento e alla corretta distribuzione. Sono d'accordo che i due vini hanno ruoli completamente diversi. Il novello è una bellissima, chiamiamola una meteora, perché nasce e muore in un periodo molto più ristretto rispetto agli altri vini. Penso possa avere un ruolo differente, e credo lo abbia, e credo che con tale ruolo differente possa avere comunque tutta la propria dignità. Bene, grazie a Francesco Zonin. Sentiamo Luca da Venezia. Buongiorno, da Vicenza, scusi. Luca da Vicenza, buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Mi dica. Niente, volevo intervenire riguardo alla domanda che aveva posto prima un ascoltatore riguardo a come sia possibile arrivare a vendere un vino a un euro. E in effetti bisogna tenere presente che il novello ha una legislazione, almeno per quello che riguarda l'Italia, abbastanza flessibile, diciamo, perché dà la possibilità di definire novello un vino che in realtà ha una percentuale di prodotto di macerazione carbonica pari, mi sembra, al 30%. Ecco, qui mi stanno molte discussioni, in effetti. Diventa un modo per rimettere sul mercato probabilmente del vino vecchio. Ecco, invece in Francia è il 100%. Esatto. Questa è la grandissima differenza, e questo è motivo di tante discussioni, in realtà. Infatti. Bene, grazie Luca di questa sua precisazione. Bene, sentiamo Paola dalla provincia di Udine. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno Davide. Senta, io avevo un nonno di Forlì. Anche lei oggi, la Romagna è proprio di scena qui. Sì, io sono toscana per padre, ma per madre sono romagnola. Il nonno di Forlì faceva per il 2 di novembre, insieme alle castagne, faceva un vino che chiamava Graspia, e mi diceva: bevi Burdella, perché questo è come il pagadebiti. Ecco che risalta fuori il pagadebit. E lo chiamava Graspia. Bene. Ed era, io ricordo, per me una cosa abbastanza indovibile. Beh, le posso confessare che anch'io avevo un nonno di Forlì che faceva il vino nella stessa maniera, ed era un vino imbevibile. Per questo forse che ho cercato di bere altrove, di cominciare a bere vini importanti, perché proprio quello di mio nonno era imbevibile sempre. Grazie a Paola dalla provincia di Udine. Il gastronauta. Ancora novello, numero verde 800 24 00 24. Novello meteora, per fortuna che muore, Giuseppe dal Piemonte. O ancora, credo che il risotto al novello, piatto particolare vivace, possa essere una buona mediazione tra i favorevoli e i contrari. Bene, abbiamo quindi delle proposte per mettere d'accordo i due partiti. Ma ora andiamo a Modena, andiamo all'Osteria della Francescana, da un suggeritore di vini di sala che sicuramente è noto anche per così accostamenti molto, molto bizzarri e molto originali. Allora gli chiedo, Giuseppe Palmieri, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Tu hai mai fatto degli accostamenti con i piatti della cucina di bottura con il vino novello? Allora, fino a ieri no, fino al vostro contatto. Questo, insomma, però, data la forma mentis francescana, mi ha incuriosito, e quindi ho deciso di approfondire l'argomento, che ammetto, insomma, di conoscere poco. Però sono sicuro, insomma, che sia uno dei tanti aspetti della grande italianità a tavola che, insomma, va sostenuto e va perlomeno approfondito. Quindi tu dici, puoi cercare, cioè cercherai di inventarti qualche accostamento? Guarda, due o tre cose interessanti secondo me ci sono sicuramente su cui lavorare. Mi viene subito in mente il nostro baccalà mantecato con la salsa del pomodoro pennolo a crudo, La pelle del baccalà fritta due volte in maniera tale che sia molto croccante, insomma sicuramente ci sono tantissimi spazi per lavorare contestualmente a quello che poi faranno tutti i produttori per sollevare gli standard di qualità, indubbiamente, però insomma, senza fare il minimo della polemica ma aprire una discussione costruttiva, questo inviterà tutti, me compreso, insieme al mio amico Luca Gardini e tutti i produttori a fare poi per le prossime annate un buon lavoro anche sul novello. Bene, grazie a Giuseppe Palmieri. Sentiamo Veronica da Trento. Buongiorno Veronica. Pronto, buongiorno. Io ho una domanda sul novello. Sì. Volevo sapere quando si decide nella vinificazione quale parte della produzione va in novello e quale procede per lavorazioni ulteriori. Cioè in pratica quali sono i parametri per decidere di bene, questo faccio novello e di questo no. Bene, guardi, abbiamo con noi il direttore tecnico del consorzio Bardolino, il dottor Vantini. Buongiorno Vantini. Buongiorno a voi. Ha sentito la domanda della nostra radioascoltatrice da Trento, possiamo dare una risposta col Bardolino? Sì, sì, ho sentito, si sentiva un volume basso, però penso di aver capito la domanda. Niente, per quanto riguarda le uve, il Bardolino novello, praticamente è un... sono praticamente più varietà, la varietà principale è la Corvina Veronese, la Rondinella e praticamente la Molinara, sono queste le varietà che l'uva viene posta intera, è una selezione, credo che si raccoglie l'uva bella e sana, viene posta intera nelle autoclavi per la macerazione carbonica. Ecco, volevo chiederle anche questo, una domanda di un radioascoltatore passata sui solfiti. Il vino novello contiene solfiti ovviamente, ma in misura molto rilevante? Solfiti sono presenti tutti i vini, certo. E quindi praticamente nei limiti di legge. Il metabisolfito è un antiossidante che viene aggiunto praticamente normalmente nel vino, quindi non è una cosa tossica, è un antiossidante perché il vino si mantenga sano, ecco, che duri nel tempo. Sì, ma forse la domanda del nostro radioascoltatore di prima era questa, siccome diciamo ci sono alcune produzioni, alcuni produttori che si definiscono biodinamici o d'altro, in cui sostengono appunto l'assenza o la poca presenza di solfiti, addirittura la presenza sotto i livelli di legge, probabilmente il riferimento era questo. Comunque Vantini, un'altra domanda le faccio, sempre di un altro SMS. Quanto la durata del novello, più o meno? Ma, diciamo che il novello praticamente si consiglia di consumarlo entro fine anno, è una primizia autunnale dove praticamente si hanno i primi sensori di come è andata l'annata, l'annata appunto in corso. Comunque praticamente se un vino novello è fatto bene diciamo si può andare anche praticamente più in là del consumo oltre che a fine anno, ecco. Diciamo che più si beve fresco più si sentono i profumi fruttati che di caratteristiche di frutta che dà il Bardolino, ma i novelli in genere proprio con la tecnica della macerazione carbonica si esaltano questi sapori, questa frutta di banana, di mora, ecco. Bene, sentiamo Marcello da Verona. Buongiorno Marcello. Buongiorno a lei. Complimenti per la sua trasmissione, in particolare per il suo sito internet, eccezionale. Grazie. Ecco, io volevo, come dire, dare il mio contributo in relazione all'intervento di un precedente ascoltatore che parlava di un vino bianco assimilabile, diciamo così, al novello. E io abito nel Veneto e secondo me questo potrebbe essere almeno il Torbolino per quanto ci riguarda, che è un vino di questa stagione, di questo periodo. E per quanto riguarda i produttori posso fare il nome dell'azienda agricola Rizzi, capace, abilissima, che produce vini su terreni del Trentino e del Lago di Garda, Taglionte. Bene, grazie a Marcello da Verona. Sentiamo Elio da Milano. Buongiorno Elio. Ah, buongiorno Poli. E niente, io volevo solo, non ho sentito il resto della trasmissione, mi dispiace. Volevo solo sottolineare una cosa, che lei è coraggiosissima a fare la trasmissione sul novello. Il novello però praticamente sta diventando un vino morto, perché una volta si faceva un salone di Vicenza con 350-380 produttori, adesso non si fa più. I vini francesi, Beaujolais Nouveau, eccetera, sono in decadenza sia in Francia che in Italia, sono praticamente spariti, sia nella ristorazione, novello e francesi, sia nella grande distribuzione che una volta teneva 15-20 vini, adesso li ha ridotti a pochissimi. La mia domanda è un po' questa. Come al solito abbiamo gonfiato un fenomeno in Italia con il novello, poi non ne sono state date delle regole di produzione precise e per cui di novelli fatti con il sistema di macerazione carbonica ce n'erano due. Poi c'erano i vini, moltissimi, vendevano di tutto con l'immagine del novello. Il novello bianco poi è un controsenso perché un novello fatto su un vino bianco, tutti i vini bianchi sono di fatto i novelli. Ecco, era solo una riflessione. No. Guardi, Elio, io no. Il consumatore si è stancato dei vini novelli. Guardi, non è che ci vuole coraggio, cioè, secondo me è un argomento d'attualità e quindi è giusto affrontarlo e lei mi dà ragione facendo queste osservazioni. Ma io sentirei ora Marcello Meregalli, del consigliere d'amministrazione del gruppo Meregalli, che importano diversi, molti vini francesi, e tra cui il Beaujolais Nouveau. È vero, dottor Meregalli, che è calato il consumo del Beaujolais Nouveau in Francia? Buongiorno a tutti. Sì, è calato comunque un po' da tutte le parti. Ci sono stati mercati emergenti come gli Stati Uniti e il Giappone che hanno salvato un po' la produzione di queste aziende che producono Beaujolais. E per quanto invece riguarda l'Italia, posso confermare le parole dell'ascoltatore che ha appena fatto questo intervento, che è un po' sceso il consumo di quello che è anche il novello francese. Fortunatamente per noi le grandi marche sono rimaste stabili con i numeri, ma i piccoli produttori sono un po' scomparsi sul nostro mercato. Ecco, volevo fare un'osservazione sul discorso della macerazione. Ci sono differenze, diciamo, legislazione tra la Francia e l'Italia per il Beaujolais Nouveau per il novello, è così? È così perché infatti anche come uscita sul mercato il Beaujolais Nouveau dava sempre come uscita il terzo giovedì del mese di novembre e quindi c'era un processo produttivo che era, diciamo, un po' più affinato rispetto a quello del novello italiano. A oggi comunque si sono molto equiparati diciamo sia come qualità sia come tempistiche, tant'è che quest'anno addirittura Beaujolais, come al solito per legge, sarà in consegna dal terzo giovedì, ma dal primissimi di novembre era già disponibile nei nostri magazzini per essere spedito. Bene, grazie Marcello Meregalli. 30 secondi per Vantini, ma ritiene anche lei, come questo radioascoltatore di Milano, che il mercato del novello sia in grande declino? Ma diciamo che non bisogna nasconderlo che il mercato del novello in questi ultimi anni ha subito, diciamo, una diminuzione. Comunque c'è qualcuno che scommette anche sul novello, in quanto praticamente è un vino che piace molto soprattutto al pubblico giovanile, magari le etichette accattivanti, che praticamente, in quanto abbiamo anche questa sensazione che praticamente qualcuno sta scommettendo anche su questo prodotto, perché è un vino che praticamente si beve subito, è molto fruttato e piace molto al pubblico giovanile. Bardolino sono circa 1 milione di bottiglie, rappresenta praticamente il 10% della produzione totale del novello, che sono circa 11 milioni di bottiglie. Ecco. Bene, grazie a Vantini, grazie a tutti coloro che sono intervenuti e siamo giunti appunto alla fine e io vi do appuntamento domani per la replica di questa trasmissione alle 10 e poi alle 12:15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno dal lunedì e il venerdì con la pillola alle ore 18. Buon weekend dal vostro Gastronauta. Torna la grande tradizione. Formaggio Asiago stagionato DOP. Vi ha presentato il Gastronauta.